quando stavo per andare a fare il maxi processo come giudice a Latere, mi ha dato un buffetto sulla guancia e mi ha detto: testa alta e schiena dritta, ragazzo, vai avanti e segui sempre la voce della tua coscienza. E quello è stato il testamento che mi porto dietro per la mia vita professionale da parte di Caponnetto. Io sono un inguaribile ottimista che dice questo, che se nemmeno ci crediamo e non speriamo, non possiamo nemmeno iniziare a questo percorso di liberazione dalla mafia. Un percorso che passa necessariamente dalla repressione, passa dalle forze di polizia e dalla magistratura, che devono essere i portabandiera di tutta una massa di cittadini. Oggi non è più il tempo di un liberatore, di un angelo vendicatore, di qualcuno che da solo possa risolvere i problemi di tutti. Io nel libro Liberi Tutti e nel gioco cercavo di liberare tutti, ma oggi non potrò mai liberare tutti. Ho bisogno che ognuno di noi cerchi di liberare tutti gli altri per poi costituire una massa di persone, una lotta da fare non solo contro la mafia, ma per la conquista delle posizioni sociali, la conquista del lavoro, la conquista del benessere, la conquista dei beni essenziali per poter sopravvivere. Allora dobbiamo trasformare la lotta alla mafia in tutto questo, con consenso di tutti e facendo forza dal numero, dall'unità.